passi lunghi ben distesi, un passo ancora, un passo per poi tornare indietro. Altro giorno, un altro. Passi lunghi ben distesi, un passo ancora, un passo per poi tornare indietro. Senza andare da nessuna parte. Passi lunghi ben distesi, un passo ancora, un passo per poi tornare indietro. Che iniziano dove finiscono e che finiscono quando incominciano. Occhi carichi di ricordi, recinzioni e cancelli, giorni, mesi, anni, sbarre, chiavi e metalli. Dimenticare i ricordi più belli e non ci resta più niente. Senza rimedio, che rende innocente chi è stato colpevole. Morire tutti i giorni, esserne consapevole. Per tutta la vita, oggi e per sempre, in un mondo in cui non fa paura più niente. Si tira a fare sera e poi a fare mattina. Uno strano fantasma che non riesce a morire. Nulla per cui sperare, nulla per cui vivere. Un passato che non passa, un presente che dura per sempre. Puoi solo sopravvivere per poi morire ancora. Un passo, un altro passo, ancora un'ora, un'ora ancora. Nemmeno più, nemmeno. Nemmeno un'altra rima.